And now the next dialogue, which takes place in the corridor. Nel corridoio. Dunque, 34, 35, 36. Ah, ecco la sua camera. 37. 37, esatto. E questa è la chiave. La chiave. The key. La chiave. Bravissima. E una chiave? A key. Una chiave, a key. Incredibile. Bella e intelligente. Lorenzo, please. Ok, ok, ok. Scusi. Allora, che ore sono? Le sette? Yes, 7 o'clock. Se non è troppo stanca, ceniamo insieme. What? Ceniamo insieme. We have dinner together. Okay? Well, yes, thank you.